I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Presidente Marta Cartabia, innanzitutto felice di risentirla. In questo caso la prima cosa che le chiedo è come sta. No, sto bene, grazie, la ringrazio molto. È stata una cosa un po' lunga, ma senza avere momenti di preoccupazione, un po' faticosa soltanto. Ehi, la quarta carica dello Stato ha condiviso di persona col paese, con l'Italia intera, i giorni difficili appunto dell'epidemia. Che esperienza è stata per lei, se posso chiederle, se c'è qualcosa che in qualche modo questa esperienza le ha lasciato? È stato un tempo molto intenso, non ha mai prevalso la noia, ma un'intensità di esperienza, certo, innanzitutto segnata da uno sconcerto e dal dolore di vedere una situazione inedita che stava provocando morti, lutti e tanta solitudine. Questo mi ha colpito molto, quanto ci siamo dovuti rassegnare a lasciare andare delle persone in piena solitudine, però è anche stato un tempo in cui c'è stato più spazio per l'ascolto di se stessi, di quello che accade, per la riflessione, quindi in fondo anche pieno di scoperte, giornate più semplici, più essenziali, in cui si dà più valore alle cose fondamentali della vita e soprattutto direi nella qualità dei rapporti. Sul piano sociale tanta preoccupazione per quello che è stato e accadrà, ma anche mi sembra di cogliere dei segnali di movimento, di dinamismo che si stanno già un po' attivando con la creatività di reinventarsi. Arriva forte e chiara la voce della Presidente della Corte Costituzionale dalla sua casa milanese, divenuta in un certo senso un pezzo del Palazzo della Consulta, nei giorni in cui il coronavirus ha contagiato anche lei, la quarta carica dello Stato. Da remoto, Marta Cartabia è andata avanti comunque, con le udienze e con la stesura della relazione del 2019. E da qui comincia allora questa puntata di Storiacce con la Presidente Marta Cartabia, la prima donna alla guida dei giudici costituzionali. Un colloquio sui diritti e sulla Costituzione, sui tempi dei viaggi e quelli dell'emergenza. Un colloquio che ci porterà nelle carceri e nel palazzo, nei rapporti tra istituzioni e nelle vite di ciascuno di noi, con la consapevolezza di avere, anche nel mare aperto dei tempi di crisi, una bussola nella Costituzione. Sono parole pronunciate dalla Presidente nell'illustrare l'attività della Corte dell'anno precedente, un appuntamento della vita istituzionale cambiato quest'anno per via dell'emergenza. Mi è dispiaciuto moltissimo non poter svolgere la riunione annuale straordinaria che la Corte fa, alla presenza delle istituzioni ma anche della stampa. C'è sempre un momento anche di confronto con la stampa e questo è un sacrificio che ci è stato imposto dalle circostanze. Ma pur cambiando la forma, il tentativo, il grande lavoro è stato quello di mantenere la sostanza e il valore delle cose, di cui la necessità di reinventarsi, come le dicevo prima, le modalità. C'è più lavoro, ma si può raggiungere forse un obiettivo simile, che è quello di comunicare l'attività della Corte, di farla conoscere, e in questo la tecnologia, devo dire, è veramente di grandissimo aiuto. Certo, in questo aiuta anche ad una Corte che ha un volto più moderno. E in certo senso sì, ci siamo dovuti velocemente modernizzare. Al Palazzo della Consulta non eravamo abituati a questi strumenti di comunicazione ma anche di lavoro. Abbiamo dovuto introdurre le camere di consiglio prima e poi le udienze da remoto, forme di processo telematico, per cui le dico un tempo davvero intenso, perché per continuare a fare l'essenziale abbiamo dovuto trasformare la struttura e l'organizzazione, quindi davvero tanto lavoro da parte dell'amministrazione, che è stata disponibilissima, dei colleghi che si sono prestati a cambiare i loro ritmi e le loro abitudini con grande flessibilità e disponibilità. Certo, ecco, io ho letto in questa scelta anche dell'utilizzo di uno strumento, appunto, come dicevo, molto radiofonico e anche moderno come quello del podcast, anche un ulteriore segnale della scelta della Corte Costituzionale di aprirsi di più fuori rispetto a quel palazzo, è così? Diciamo in linea di continuità con uno stile che la Corte ha già sperimentato e coltivato negli ultimi anni, perché proprio quello che dico nella relazione è che l'anno 2019, perché io riferivo delle attività dello scorso anno, è stato un anno di grande apertura, direi soprattutto apertura alla società civile. La Corte ha intrapreso un viaggio in Italia, nelle scuole, nelle carceri, e anche di apertura all'attività internazionale che sta crescendo davvero in modo molto molto significativo per la Corte Costituzionale italiana. E restando su questo aspetto dell'apertura, direi che il podcast, piuttosto che appunto altre forme e modalità di comunicare il nostro lavoro non soltanto a un auditorio di tecnici, di esperti, di giuristi, di giudici, avvocati che sono naturalmente destinatari dell'attività della Corte Costituzionale, la Corte ha voluto proprio rivolgersi anche ai cittadini. Le nostre sentenze vengono assunte nel nome del popolo italiano ed è giusto che questo popolo possa conoscere direttamente dalla voce della Corte ciò che viene deciso, come viene deciso, perché, perché questo fa parte proprio, io credo, del compito istituzionale della Corte, farsi conoscere dai cittadini. Ecco, lei ha già citato il viaggio nelle scuole e nelle carceri che hanno accompagnato il 2019, ma nuove tappe sarebbero state previste anche per quest'anno. Purtroppo l'emergenza ha imposto un halt anche a questi progetti della Corte. Qual è il suo principale rammarico rispetto a questi progetti saltati per via dell'emergenza? E questa è proprio la parte che ne ha risentito di più e sicuramente fa parte dei dispiaceri che ci portiamo un po' nel cuore di non aver potuto proseguire nello stesso modo questo viaggio in Italia che ci ha tanto arricchito e tanto beneficio stava portando, a mio parere, alla vita dell'istituzione. Ma anche lì è una sospensione, si ritroverà il modo di proseguire in altre forme e fermandosi quel tipo di attività, direi appunto soprattutto del viaggio in Italia e, come le dicevo, anche di incontri con altre corti, non sa quante barrette rosse ci sono sulla mia agenda, cancellato, cancellato, cancellato, che fanno tanta tristezza, però è anche vero che si è creato lo spazio per altre iniziative. Stiamo lavorando per esempio alacremente a un progetto di processo telematico che era rimasto in sospeso, quindi assecondiamo le circostanze e vediamo di trarre il meglio dalla realtà così come ci viene incontro. Eccolo allora, un passaggio del podcast della Presidente Cartabia che ritrovate anche sul sito della Corte Costituzionale. In questa sede mi limito a segnalare le principali questioni emergenti, a partire dall'esigenza che si impone con sempre maggiore evidenza in ogni attività della Corte, quella del pieno sviluppo della leale collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica nell'attuazione dei principi costituzionali. Occorre muovere da una considerazione solo apparentemente ovvia e banale. Il compito di garantire attuali principi costituzionali è di per sé inesauribile e coinvolge tutte le istituzioni repubblicane. Vero è che alla Corte Costituzionale spetta una funzione insostituibile, che è quella di assicurare il rispetto dei principi costituzionali anche da parte del legislatore. È altresì vero, però, che la piena attuazione dei principi costituzionali ha un carattere necessariamente corale e richiede l'attiva, leale collaborazione di tutte le istituzioni, giudici ordinari, corti sovranazionali, regioni, pubblica amministrazione e soprattutto il legislatore nazionale. Cosa che tante volte ci chiedono quando vengono le persone in visita alla Corte Costituzionale, vedono che sui nostri tavoli c'è il testo della Costituzione, ci dicono: ma come, non lo conoscete a memoria? Sì, lo conosciamo, però è sempre bene rileggerlo, riaprirlo, perché lì dentro c'è una saggezza, una ricchezza di contenuti che vale la pena sempre riscoprire. Insomma, una Costituzione che parla anche a seconda dei momenti in cui viene consigliata. consultata in cui viene letta. Ecco, lei nella relazione invoca anche la leale collaborazione, un principio che lei ha richiamato più volte anche in passato, e come diceva anche poco fa, significa che la separazione dei poteri non è dunque in contrapposizione con una cooperazione istituzionale. Sì, questo vale sempre, perché nella nostra struttura, architettura istituzionale ci sono dei binomi, delle coppie, delle, diciamo così, di principi che non vanno mai separati, devono sempre essere uniti. Occorre la separazione dei poteri, occorre che ciascun ambito, il potere giudiziario, il potere legislativo, la Corte Costituzionale, il Capo dello Stato, le regioni, eccetera, abbiano i loro ambiti definiti di competenza. Ma questa distinzione non è in contrasto con la cooperazione, così come l'indipendenza. Noi siamo molto fieri come organi giurisdizionali della nostra indipendenza, soprattutto dal potere politico. Questa indipendenza non è in contrasto con la possibilità di collaborare per uno scopo comune, che nel nostro caso è la piena attuazione dei principi costituzionali. E se lei ci pensa, non è altro che quello che accade anche nella vita delle persone. Le persone sono individui, ma sono anche in rapporto. Lo stesso è le istituzioni, che in fondo proiettano su un piano, diciamo così, appunto istituzionale, l'esperienza che è l'esperienza umana. E infatti gli individui, soprattutto anche nei momenti di emergenza, sono più solidali tra di loro, è una forma di collaborazione. È quello che abbiamo visto, devo dire, è stato uno degli aspetti che mi ha più colpito, forse non l'ho sottolineato prima, di questi tempi, veder fiorire iniziative spontanee di solidarietà sul piano sociale. Aiuti tra vicinato, nel palazzo, tra gruppi di amici, di persone, per venirsi incontro nei momenti di bisogno. Ecco, questo secondo me è un segnale anche per le istituzioni. In fondo la cooperazione istituzionale non è che la proiezione su a un livello istituzionale di quello che è la solidarietà a livello sociale. La leale collaborazione tra istituzioni, che è l'equivalente un po' della solidarietà tra persone, quella che tutti noi abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi mesi così difficili, quella che ha osservato e sperimentato anche la Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, la prima donna a guidare il Palazzo della Consulta. La giudice, guarita dal coronavirus, ha accettato questo colloquio con noi e parleremo ancora di carcere, di fine vita, di sentenze dell'anno scorso e di riforme mai avvenute, ma anche di mondo che verrà. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce. Dal terrazzo del Palazzo della Consulta a Roma è di una bellezza da togliere il fiato. È qui che in questa puntata di Storiacce siamo idealmente entrati, nel palazzo di fronte al Quirinale che ospita la Corte Costituzionale. Voluto da Papa Clemente XII nel 1732, è stato tra l'altro sede nel periodo napoleonico della Prefettura del Tevere, poi del governo della Seconda Repubblica Romana, del Ministero degli Affari Esteri e di quello delle Colonie, poi ovviamente abolito, e dal 1955 la sede della Corte Costituzionale. Un ingresso stavolta solo ideale nel palazzo perché, come avete sentito nella prima parte di Storiacce, l'emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini anche per loro, anche per i giudici delle leggi, a cominciare dalla presidente della Corte, Marta Cartabia, da poco guarita dopo il contagio. Così quest'anno anche la relazione sull'attività svolta dalla Corte ha dovuto cambiare veste, ma la Corte accetta comunque, anche in questa occasione, di aprirsi al mondo esterno, di conoscere e di farsi conoscere, portando la Costituzione anche fisicamente fuori dal palazzo. Costituzione che resta bussola anche nei tempi di crisi. Abbiamo parlato di apertura, di podcast, di diritti, di crisi e di leale collaborazione nella prima parte, quella che la Presidente Marta Cartabia, nella relazione, invoca anche per noi, per la stampa. Quello di cui ho avverto di più in ogni tempo, in particolare in questo, è innanzitutto che la stampa a noi cittadini, a noi lettori, permetta di partire sempre dai dati di fatto proposti con lealtà. Abbiamo bisogno di poter capire di che cosa si parla. Certo, la stampa o l'informazione non si arresta a questo, è fatta anche di interpretazioni, di opinioni, di chiavi di lettura, che ben vengano, però per un lettore è importante capire il fatto, distinguere il fatto dall'interpretazione, perché a volte altrimenti si rischia di non riuscire a seguire qual è il punto rilevante. E la seconda esigenza che io avverto è che ovviamente la stampa e l'informazione è fatta anche per discutere, per criticare, per dialogare, quindi ci sono dei punti in cui si sottolinea ciò che non va, ma che la critica sia costruttiva, cioè che non si arresti semplicemente a dire va tutto male, questo non va bene, ma qual è l'alternativa? Mi domando spesso quando vedo delle forme di critica anche dura che a volte sono necessari. Ecco, questi due punti, lealtà coi dati di fatto, distinzione del fatto dall'opinione, critica costruttiva, li avverto come un'esigenza particolarmente urgente. Ecco, Presidente, abbiamo già citato più volte in questo colloquio il viaggio in Italia, che però è stato un elemento importante di questo 2019 speciale per la Corte, come è stato anche definito. Voi avete portato la Costituzione nel luogo più remoto della società, di fatto le carceri, ed è stato come dare, per riprendere le sue parole, un volto umano alla giustizia da parte vostra, che siete giudici di leggi e non di persone. Ma se voi siete usciti dal palazzo della Consulta per andare verso il mondo esterno, in qualche modo anche quel mondo esterno invece è entrato all'interno del palazzo, anche quando siete stati chiamati ad occuparvi di norme che riguardano proprio il carcere? Sì, in qualche modo sì, anzi in vari modi. Io l'ho detto prima, quel viaggio è stato intrapreso anche sulla base dell'esigenza del farsi conoscere, che l'istituzione fosse più conosciuta dai cittadini, ma in realtà è stata mossa anche da un'esigenza di conoscenza nostra, conoscere e farsi conoscere. Mi viene sempre in mente Einaudi, che usava questa sequenza di azioni: conoscere, discutere, deliberare. Ecco, l'esigenza per la Corte per arrivare a delle deliberazioni più ricche è quella di sviluppare sempre di più i suoi strumenti di conoscenza, conoscenza che è sicuramente del diritto, ma la conoscenza che noi abbiamo potuto arricchire attraverso questi viaggi era proprio la conoscenza delle situazioni di fatto su cui quel diritto va a incidere. Ecco, io avevo seguito anche alcune tappe e anche il docufilm, no? Voi avete proprio incontrato i detenuti, sentito certo anche le loro storie, anche personali, inevitabilmente, pur restando ovviamente ancorati a quelli che sono i vostri compiti, al diritto, alla Costituzione, ma inevitabilmente quei visi non ritornano in mente quando si prendono delle decisioni che, come nel caso specifico è anche avvenuto l'anno scorso, hanno a che fare anche proprio con la vita di chi vive all'interno delle carceri. Indubbiamente è così, i visi dei detenuti, le difficoltà dell'amministrazione e poi la polizia penitenziaria, tutto quello che è il mondo del carcere era ben presente ed è stato ben presente in tante nostre decisioni, che sempre si sono ispirate, soprattutto negli anni, al principio della individualizzazione della pena, perché ogni storia lì dentro è davvero una storia a sé stante, e sempre a mantenere nel giusto equilibrio, nel giusto bilanciamento, l'esigenza di rieducativa, cioè che la pena sia sempre volta alla rieducazione del condannato, senza mai trascurare anche i compiti di garantire adeguatamente la sicurezza dei cittadini. Questo è che sono dei principi generali che abbiamo sempre avuto nella nostra giurisprudenza, si sono arricchiti di storie, di volti, come le dicevo, sicuramente dei detenuti, ma anche di tutte le persone che spendono la vita proprio dentro quell'universo, che è un universo da guardare, da conoscere. Diceva Calamandrei: bisogna aver visto. Quella è una realtà da conoscere con delle visite in persona. Certo. Ecco, Presidente, di sicuro tra le sentenze dell'anno scorso della Corte, lei infatti lo ricorda anche nella relazione, tra quelle che in qualche modo sono state anche seguite, forse con maggiore attenzione anche dall'opinione pubblica, c'è stata quella sul fine vita, il caso Cappato. La Corte aveva tra l'altro sollecitato sul tema riforme legislative che però per ora non sono avvenute. Sì, la Corte spesso nelle sue sentenze dà delle indicazioni al legislatore sulla necessità di interventi, o meglio offre degli inviti, offre delle riflessioni. In quel caso addirittura c'era stata una tecnica processuale particolare. Nel 2018 la Corte aveva sospeso il giudizio per dare tempo al legislatore di intervenire, poi essendo passato un anno la Corte ovviamente non può lasciare i processi in sospeso e deve decidere, sarebbe grave che non lo facesse, quindi ha concluso il processo senza che la legge sia stata modificata. Ma quella è stata un'occasione per riflettere proprio sul fatto che in tantissimi casi, anche più piccoli, anche meno rilevanti per il dibattito pubblico, ma che incidono poi sulla vita delle persone, nelle sue motivazioni, negli argomenti, la Corte indica spesso delle incongruità della normativa su cui deve decidere, che però non sono così gravi da essere dei motivi, dei vizi di incostituzionalità, e quindi sfugge alla Corte la possibilità di intervenire. Lì la Corte segnala al legislatore la necessità di modificare, modernizzare, razionalizzare. Talora il legislatore raccoglie questo invito, è accaduto l'anno scorso, per esempio una sentenza dell'inizio dell'anno è seguita una modifica legislativa entro la fine dell'anno stesso, dall'altra rimangono così, cadono un po' nel nulla, penso più per disattenzione che per altri motivi. È un peccato, diciamo che i moniti inascoltati delle nostre sentenze sono un po' occasioni perdute che se fossero raccolte risparmierebbero contenzioso, si eviterebbe poi di arrivare davanti alla Corte e permetterebbero di evitare problematiche per chi è destinatario di quelle norme. L'ultima cosa che le chiedo, Presidente, ritornando un po' anche all'inizio della nostra conversazione, e stavolta mi rivolgo più che alla Presidente della Corte Costituzionale, mi rivolgo alla cittadina e per certi versi anche alla cittadina milanese. Posso chiederle se c'è qualcosa che immagina o che auspica per l'Italia del dopo emergenza? Una domanda impegnativa questa, ma le risponderei così. Per il dopo emergenza il mio auspicio, non so in che modo, ma che sia un nuovo inizio, che non sia un tornare al punto di partenza. Un nuovo inizio sotto ogni profilo sociale, economico, ambientale, relazionale, perché penso che in questo periodo di grandi sacrifici per tutti tanti di noi si stanno facendo tante domande su vari aspetti e stili della vita passata. Ecco, che questi sacrifici non vadano perduti, che possano lasciare il desiderio di incominciare da capo, non tornare a tutto come prima. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra, con la regia di Andrea Roccavella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raf Calandra e su Instagram.